Capitolo 11. Quando dopo pranzo le signore si ritirarono, Elizabeth corse su dalla sorella e, vedendola ben riparata dal freddo, l'accompagnò nel salotto, dove Jane venne accolta dalle sue due amiche con reiterate manifestazioni di gioia. Elizabeth non le aveva mai trovate tanto simpatiche quanto in quell'ora trascorsa insieme prima che comparissero gli uomini. Avevano una capacità di conversazione veramente notevole. Sapevano descrivere un trattenimento in ogni particolare. Erano in grado di raccontare garbatamente un aneddoto e di prendersi molto spiritosamente gioco dei loro conoscenti. Ma una volta entrati gli uomini, Jane non fu più per loro il soggetto principale. Gli occhi della signorina Bingley si volsero istantaneamente su Darcy ed aveva qualcosa da dirgli già prima che egli si fosse fatto avanti di qualche passo. Darcy, dal canto suo, si era rivolto alla signorina Bennet con cortesi espressioni di rallegramento. Il signor Hurst le fece pure un leggero inchino, dicendo che era molto lieto, ma soltanto il saluto di Bingley fu pieno di effusione e di calore. Egli era tutto contentezza e premure. La prima mezz'ora fu trascorsa nell'attizzare il fuoco per timore che la convalescente dovesse risentire del cambiamento di stanza, e accondiscendendo al desiderio di lui, ella passò all'altro lato del caminetto per essere più lontana dalla porta. Poi egli le si sedette vicino e non rivolse quasi più la parola ad altri che a lei. Elizabeth, che lavorava nell'angolo opposto, assistette a tutta la scena con intima gioia. Dopo il tè, il signor Hurst rammentò alla cognata il tavolo da gioco, ma invano. Da informazioni private le risultava che il signor Darcy non aveva simpatia per le carte e presso il signor Hurst vide respinta alla sua aperta domanda. La signorina Bingley lo assicurò che nessuno aveva voglia di giocare e il silenzio generale in proposito parve giustificare la sua asserzione. Per cui il signor Hurst non rimase altro da fare che allungarsi sul divano e addormentarsi. Darcy prese un libro e altrettanto fece la signorina Bingley. Quanto alla signora Hurst, essenzialmente occupata a giocherellare con i suoi anelli e braccialetti, s'univa di tanto in tanto alla conversazione del fratello con la signorina Bennet. L'attenzione della signorina Bingley non era meno impegnata nel sorvegliare come procedeva la lettura del signor Darcy che nella propria, e continuava a rivolgergli domande o a guardargli la pagina. Non le riuscì tuttavia di attrarlo in una conversazione. Egli si accontentava di rispondere alle domande di lei, proseguendone la lettura. Infine, completamente esaurita dal tentativo di divertirsi col proprio libro, che del resto aveva scelto soltanto perché era la continuazione di ciò che leggeva lui, uscì in un gran sbadiglio e dichiarò: «Com'è piacevole passare una serata in questo modo! Già, per conto mio, non esiste divertimento superiore alla lettura. Quando presto avrò una casa tutta mia, sarò felice se non avrò una biblioteca di prim'ordine.» Nessuno le rispose. Allora sbadigliò di nuovo, mise da parte il libro e girò gli occhi intorno alla stanza in cerca di qualche svago. Quando udì suo fratello accennare a un ballo, conversando con la signorina Bennet, si volse di scatto verso di lui e disse: «A proposito, Charles, stai meditando proprio sul serio di dare un ballo a Netherfield? Ti consiglierei, prima di prendere qualsiasi decisione, di sentire un po' i desideri di tutti i presenti. Mi sbaglio di molto se non c'è fra noi qualcuno per cui un ballo rappresenta piuttosto un castigo che un divertimento.» «Se intendi alludere a Darcy», ribatté il fratello, «è padronissimo di andarsene a letto, se così gli garba, prima che la festa incominci. Ma quando al ballo è ormai una cosa decisa e non appena Nichols avrà preparato brodo bianco in dose sufficiente per tutti, spedirò gli inviti.» «A me i balli piacerebbero infinitamente di più», ella ribatté, «se si svolgessero in maniera diversa. Invece, così come si svolgono di solito, sono insopportabilmente noiosi. Sarebbe senza dubbio molto più ragionevole se all'ordine del giorno delle riunioni fosse messa la conversazione anziché il ballo.» «Molto più ragionevole, carissima Caroline, lo ammetto. Ma allora del ballo resterebbe ben poco.» La signorina Bingley non rispose e poco dopo si alzò per mettersi a passeggiare su e giù per la stanza. Aveva una bella figura e un portamento elegante, ma Darcy, al quale tutti quegli armeggi erano diretti, rimase inesorabilmente sprofondato nella sua lettura. Esasperata, Caroline Bingley decise di tentare un'ultima carta e, rivolgendosi a Elizabeth, le disse: «Signorina Liz Bennet, mi permetta di convincerla a seguire il mio esempio e a fare un giro nella sala. Le garantisco che è un vero ristoro dopo essere rimasti seduti tanto tempo nella stessa posizione.» Elizabeth ne fu sorpresa, ma si dichiarò immediatamente d'accordo, e con altrettanta rapidità la signorina Bingley riuscì nel vero intento della sua cortesia. Il signor Darcy alzò lo sguardo. La novità di un'attenzione da quella parte l'aveva colpito non meno di quanto aveva colpito Elizabeth e senza accorgersene richiuse il libro. Fu subito invitato a raggiungerle, ma egli rifiutò, obiettando che non sapeva immaginare altro che due ragioni per la decisione della loro presa di passeggiare insieme su e giù per la sala e che l'unirsi a loro avrebbe urtato sia con l'una che con l'altra di quelle supposizioni. Che cosa intendeva? La signorina Bennet moriva dalla voglia di sapere quali potessero essere i suoi pensieri riposti e finì col domandare a Elizabeth se riuscisse a capirlo. Nemmeno per sogno, fu la risposta. Ma creda me, quel signore si propone certamente di essere severo nei nostri confronti. E il mezzo più sicuro a nostra disposizione per fargli dispetto sarà quello di non chiedergli nulla. Tuttavia, la signorina Bingley era incapace di far dispetto al signor Darcy per qualsiasi motivo. E persistette quindi nel chiedergli di chiarire quelle due insinuazioni. Non ho la minima obiezione a spiegarle, egli rispose appena egli gli consentì di parlare. Voi avete scelto questo modo di passare la serata, o perché siete in grande confidenza, avete dei segreti da rivelarvi, o perché vi rendete conto che codesto passeggiare su e giù mette nella miglior luce il vostro personale. Se è la prima ipotesi, io vi sarei positivamente d'impaccio, e se è vera la seconda, mi posso ammirare molto meglio rimanendo seduto qui accanto al fuoco. Oibò! Esclamò la signorina Bingley. Non ho mai sentito nulla di più abominevole. Come punirlo per un simile discorso? Nulla di più facile, purché lei ne abbia voglia, suggerì Elizabeth. Siamo tutti capaci di tormentare e di punire il nostro prossimo. Lo punzecchi, lo prenda in giro. Intimi come sono, ben deve sapere come riuscirci. No, che non lo so, parola d'onore. Le assicuro che il mio grado di intimità questo non me l'ha ancora insegnato. Punzecchiare un carattere così calmo, misurarsi con una presenza di spirito come la sua. No, no, sento che sarebbe lui a darci dei punti. Quanto al prenderlo in giro, non vorrei che ci esponessimo a far brutta figura tentando di ridere senza motivo. Il signor Darcy potrebbe trarne partito. Che? Non si può ridere del signor Darcy? Domandò Elizabeth. È un privilegio non comune, e non comune mi auguro che continui ad essere. Sarebbe un bel guaio per me se avessi molti amici così. A me una buona risata piace moltissimo. La signorina Bingley, intervenne Darcy, mi ha dato più credito di quanto io non meriti. Il più saggio e il migliore degli uomini, anzi, la più saggia e la migliore delle azioni, può essere posto in ridicolo da una persona che abbia per scopo precipuo della vita il far dello spirito. Senza dubbio, esistono di queste persone, ribatté Elizabeth, ma io spero di non essere del numero. Spero di non avere mai messo in ridicolo ciò che è saggio e buono. Le stravaganze, le sciocchezze, i capricci, le incongruenze mi divertono, lo ammetto, e ne rido appena posso. Ma sono tutte cose, per l'appunto, di cui ritengo che lei vada immune. Forse non a tutti riesce, ma io nella mia vita mi sono sempre studiato ad evitare quelle debolezze che spesso espongono a ridicolo anche l'intelligenza più viva. Come la vanità e l'orgoglio? Sì, appunto. La vanità è una debolezza. Ma l'orgoglio, laddove si tratti di una mente davvero superiore, l'orgoglio ha sempre la possibilità di essere ben guidato. Elizabeth si volse per nascondere un sorriso. Ritengo che la sua analisi del signor Darcy sia conclusa, disse la signorina Bingley. E con quale risultato di grazia? Lei mi ha perfettamente convinta che il signor Darcy non ha difetti. Egli stesso non si fa scrupolo di ammetterlo. No! Ribatté Darcy, non ho preteso nulla di simile. Ho anch'io la mia dose di difetti, ma non sono, spero, difetti di intelletto. Non posso garantire della mia indole che giudico troppo poco conciliante, certamente troppo poco per le convenienze mondane. Non sono capace di dimenticare la stoltezza e i vizi altrui così presto come dovrei, né so dimenticare le offese. I miei sentimenti non si lasciano smuovere al primo tentativo. Il mio carattere si potrebbe forse definire permaloso. La mia buona opinione. Una volta perduta, è perduta per sempre. Codesto sì che è un difetto, esclamò Elizabeth. Il risentimento implacabile getta veramente un'ombra sul carattere di una persona. Ma lei ha scelto bene il suo difetto. Non sono certo capace di riderne. Dalle mie critiche, dunque, lei è salvo. In ogni temperamento c'è, credo, una tendenza a qualche cattiva piega, un difetto di natura che nemmeno la migliore educazione riesce a vincere. E il suo difetto è un'inclinazione a detestare il suo prossimo. E il suo, egli rispose con un sorriso, è quello di fraintendere volontariamente. Facciamo un po' di musica, esclamò la signorina Bingley, stanca di una conversazione in cui non aveva parte. Luisa, Non ti dispiace, vero, se sveglio il signor Arst? La sorella non mosse la minima obiezione e fu aperto il pianoforte. Quanto a Darcy, dopo qualche minuto di riflessione, non trovò da rammaricarsene. Cominciava a sentire il pericolo di dedicare troppa attenzione ad Elizabeth. Capitolo 12. In seguito a un accordo intervenuto fra lei e la sorella, la mattina dopo Elizabeth scrisse alla madre pregandola di mandar loro la carrozza nel corso della giornata. Ma la signora Bennet, la quale aveva calcolato che le sue figliole rimanessero a Netherfield fino al martedì successivo, completando così la settimana di soggiorno di Jane, non poteva indursi a riceverle con gioia prima di allora. Perciò la sua risposta non fu favorevole, o quantomeno non assecondò il desiderio di Elizabeth, che era impaziente di tornarsene a casa. La signora Bennet fece sapere alle figlie che non avrebbero potuto avere la carrozza prima di martedì. Ed aggiunse in un post-scritto che se il signor Bingley e sua sorella facevano loro pressione perché restassero ancora, lei poteva benissimo fare a meno di loro. Tuttavia, Elizabeth era fermamente decisa a non prolungare il soggiorno, né si aspettava grandi insistenze. Anzi, per timore che rimanendo senza necessità gli anfitrioni potessero considerarle delle intruse, sollecitò Jane a chiedere subito in prestito la vettura del signor Bingley. Infine decisero di far cenno del loro primitivo progetto di lasciare Netherfield quella mattina e di richiedere la carrozza. Tale comunicazione suscitò molte manifestazioni di rincrescimento. Fu ripetutamente espresso il desiderio che si trattenessero fino all'indomani, tanto che Jane finì per cedere e la loro partenza fu rinviata di un giorno. La signorina Bingley si pentì allora di aver proposto questa dilazione, giacché la gelosia e l'antipatia che provava nei riguardi di una delle due sorelle superava di molto il suo affetto per l'altra. Il padron di casa apprese con vero rammarico che se ne sarebbero andate così presto e cercò reiteratamente di persuadere la signorina Bennet che il viaggio per lei non era consigliabile, che non era abbastanza ristabilita. Ma Jane, che si sentiva dalla parte del giusto, fu irremovibile. Per il signor Darcy fu una buona notizia. Ormai Elizabeth a Netherfield c'era stata abbastanza. Se ne sentiva attratto più di quanto gli facesse piacere. La signorina Bingley poi con lei era sgarbata e con lui più importuna del consueto. Prese la savia decisione di star bene attento a non lasciare più trapelare alcun segno di ammirazione, nulla che potesse confortare in lei la speranza di influire in qualche maniera sulla sua felicità, conscio che se anche un'idea simile le fosse venuta in mente, il suo contegno di quell'ultimo giorno avrebbe avuto un peso decisivo, sia per confermargliela che per distruggergliela. Saldo nel suo proposito, durante tutta la giornata di sabato, le rivolse a stento 10 parole e benché a un dato momento fossero rimasti soli, per una mezz'ora egli si sprofondò subito nel suo libro, senza neppure degnare ad uno sguardo. La domenica, dopo il servizio religioso della mattina, ebbe luogo la separazione così gradita a quasi tutti. La cortesia della signorina Bingley nei confronti di Elizabeth aumentò di parecchio negli ultimi istanti, non meno del suo affetto per Jane. E quando si accomiatarono dopo aver assicurato la seconda del piacere che le avrebbe sempre procurato di vederla sia a Longbourn che a Netherfield ed averla abbracciata teneramente, giunse al punto di stringere la mano alla prima. Elizabeth si staccò da tutti con la migliore disposizione d'animo. A casa, la madre le accolse con scarso entusiasmo. La signora Bennet si meravigliò di vederle di ritorno, trovò che avevano fatto malissimo a recare tanto disturbo e si disse sicura che Jane si fosse di nuovo infreddata. Ma il padre, sebbene molto sobrio nelle sue manifestazioni di gioia, fu davvero contento di rivederle. Aveva capito la loro importanza nella cerchia familiare. Con l'assenza di Jane e di Elizabeth, la conversazione della sera, quando erano tutti riuniti, aveva perso molto della sua animazione e quasi tutto il suo significato. Come al solito, trovarono Mary immersa nello studio dell'armonia e della natura umana. Dovettero ammirare qualche altro riassunto ed ascoltare qualche nuovo luogo comune in tema di morale. Catherine e Lydia avevano ben altre notizie da comunicare alle sorelle. Molto era stato fatto e detto a reggimento dal mercoledì precedente. Qualche ufficiale era stato a pranzo dallo zio, un soldato semplice era stato fustigato e si era persino sussurrato che il colonnello Forster stesse per prendere moglie. Capitolo 13. Spero, cara, disse il signor Bennet alla moglie la mattina dopo mentre facevano colazione, spero che tu abbia dato disposizioni per un buon pranzo oggi, dal momento che ho motivo di aspettare un'aggiunta al nostro gruppetto familiare. A chi vuoi alludere, caro? Non mi risulta che debba venire qualcuno a meno che non capiti Charlotte Lucas. Ma per lei spero che i miei soliti pranzi siano buoni abbastanza. Credo che a casa sua non ne assaggi molti di simili. La persona di cui parlo è un uomo, un forestiero. Gli occhi della signora Bennet si illuminarono. Un uomo, un forestiero? Ma allora è il signor Bingley, certo! Ma come? Jane, non ti sei mai lasciata scappare una parola a questo proposito, furbacchiona che sei? Ebbene, dal canto mio sarò ben lieta di vedere il signor Bingley, ma santo cielo, che disgrazia! Oggi non si troverà neppure un briciolo di pesce. Lydia, amor mio, suona il campanello! Bisogna che parli immediatamente con Hill! Ma non si tratta del signor Bingley, disse il marito. Si tratta di una persona che non ho mai visto in vita mia. Quella dichiarazione destò la meraviglia generale. Il signor Bennet ebbe il piacere di venire bersagliato dalle incuriosite domande di sua moglie e delle sue cinque figliole ad un tempo. Dopo essersi divertito un poco a loro spese, egli offrì questa spiegazione. Circa un mese fa ricevetti questa lettera e un paio di settimane or sono, pressappoco, vi risposi perché, trattandosi, secondo me, di un caso alquanto delicato, mi sembra opportuno non frapporre indugio. La lettera è del signor Collins, quel mio cugino che quando io sarò morto potrà cacciarvi da questa casa appena gli farà comodo. Oh mio Dio! Esclamò la consorte. Non posso nemmeno sentirne parlare io di questa cosa. Ti prego di non nominare quell'uomo detestabile. Mi pare che davvero non si possa dare al mondo nulla di più crudele che avere un patrimonio vincolato ad altri che non ai propri figli. E sono sicura che, fossi stata io nei tuoi panni, avrei già tentato da un pezzo di rimediarvi in qualche modo. Jane ed Elizabeth si provarono a spiegarle la natura di un patrimonio vincolato. Non era la prima volta, del resto, che facevano un tentativo del genere, ma era un argomento su cui la signora Bennet non era in grado di ragionare e continuò quindi a protestare amaramente contro la crudeltà di sottrarre un patrimonio a una famiglia di cinque figlie a favore di un individuo del tutto indifferente. Si tratta senza dubbio di un'iniquità, disse il signor Bennet, e nulla potrà lavare il signor Collins dalla colpa di ereditare Longbourn. Ma se vorrai ascoltare questa lettera, ti sentirai forse un tantino ammansita dal suo modo di esprimersi. Oh, no, questa poi no, e trovo anzi che ha dato prova di una bella impudenza a scriverti, ipocrita che non è altro. Non posso soffrire codesti falsi amici. Perché continua a litigare con te come sempre fece suo padre? Per l'appunto, si direbbe che gli siano venuti in merito degli scrupoli filiali, come sentirai. Hansford, presso Westerham, Kent, 15 ottobre. Caro signore, il disaccordo esistente fra lei e il mio defunto e venerato genitore è sempre stato per me motivo di disagio, e da quando ho avuto la sventura di perderlo, ho spesso desiderato di sanare questa ferita. Per diverso tempo, tuttavia, ne sono stato trattenuto dai miei dubbi personali. Temevo cioè di poter apparire non sufficientemente rispettoso della sua memoria, raggiungendo un'intesa con la persona con la quale era lui talentato di aver dei dissapori. Eccoci al punto, signor Bennet. Tuttavia, la mia determinazione in merito è ormai presa, giacché avendo io a Pasqua ricevuto gli ordini, ho avuto la rara fortuna di essere fatto segno della predilezione dell'onorevolissima Lady Catherine de Bourgh, vedova di Sir Louis de Bourgh, la cui bontà e benevolenza mi ha ottenuto la preziosa carica di rettore di questa parrocchia, durante la quale carica sarà mio precipuo intento di dimostrare a sua signoria il mio deferente rispetto e di essere sempre pronta alla celebrazione di questi riti e di quelle cerimonie che sono istituiti dalla Chiesa d'Inghilterra. Inoltre, nella mia qualità di ecclesiastico, sento il dovere di aiutare a ristabilire in tutte le famiglie che si trovano nella sfera della mia influenza la benedizione della pace. Per queste ragioni mi lusingo che le mie attuali profferte di buon volere siano altamente commendevoli e il fatto che io sia il futuro erede di Longbourn venga da lei benignamente trascurato e non la induca a respingere il ramoscello d'olivo che io le porgo. Il pensiero di recar danno alle sue graziose figliole non può altrimenti che addolorarmi e le chiedo il permesso di farle perciò le mie scuse, mentre al tempo stesso tengo ad assicurarla di essere dispostissimo a farne ammenda con le signorine medesime, ma di ciò in seguito. Qualora ella non avesse nulla di contrario a ricevermi nella sua casa, io mi proporrei il piacere di far visita a lei e alla sua famiglia lunedì 18 novembre alle 4 e probabilmente approfitterò della loro ospitalità fino al sabato della settimana successiva, cosa che posso fare senza inconveniente. In quanto Lady Catherine non ha la minima obiezione circa una mia occasionale assenza di domenica, purché qualche altro ecclesiastico si incarichi delle funzioni della giornata. Con rispettoso ossequio alla sua signora e alle sue figliole, mi firmo, caro signore, il suo devoto amico William Collins. Alle 4 dunque ci possiamo aspettare questo signor paciere? Disse il signor Bennet ripiegando la lettera. Sembrerebbe un giovane estremamente coscienzioso e perbene, parola mia, e non dubito che si rivelerà una conoscenza preziosa, specialmente se Lady Catherine dovesse essere tanto indulgente da permettergli di tornare a trovarci. Però dimostra del buon senso in quello che dice riguardo le figlie, e se è davvero disposto a fare ammenda con loro, non sarò certo io a scoraggiarlo. Sebbene sia difficile, osservò Jane, indovinare in quale modo egli si proponga di offrirci il risarcimento che gli sembra ci sia dovuto, questo desiderio depone sicuramente a suo favore. Elizabeth fu particolarmente colpita dalla straordinaria deferenza di lui dimostrata verso Lady Catherine e dalla sua buona intenzione di battezzare, sposare e seppellire i suoi parrocchiani ogni volta che occorresse. Deve essere un tipo strano, mi sembra, ella disse. Non riesco a immaginarmelo. Ha uno stile talmente ampolloso. E perché poi ci viene a domandar perdono di essere l'erede di questo patrimonio vincolato? Non vorrà che pensiamo che se potesse ne farebbe a meno? Le pare una persona ragionevole, babbo? No, cara, mi pare di no. Spero anzi di scoprire lui assolutamente l'opposto. C'è nella sua lettera un misto di servilismo e di prosopopea che promette bene. Sono impaziente di conoscerlo. Come componimento, osservò Mary, la sua lettera non sembra però difettosa. L'idea del ramoscello d'olivo non è forse del tutto nuova, però mi pare che sia espressa bene. Per Catherine e per Lydia, né la lettera né il suo autore presentavano il minimo interesse. Era pressoché impossibile che quel loro cugino arrivasse vestito di scarlatto, ed erano ormai diverse settimane che loro due non traevano diletto se non dalla compagnia di uomini vestiti in quel colore. Quanto alla madre, la lettera del signor Collins aveva cancellato molto del suo rancore e si preparava adesso ad accoglierlo con un contegno così dignitoso che il marito e le figlie ne erano sorpresi. Il signor Collins fu puntualissimo e venne ricevuto con la massima cortesia da tutta la famiglia. Il signor Bennet veramente parlò poco, ma le signore si mostrarono piuttosto discorsive, del resto si sarebbe detto che il signor Collins non avesse bisogno di incoraggiamento né avesse intenzione di restarsene zitto. Era un giovane di 25 anni, alto, dai lineamenti marcati, aveva un'aria grave e maestosa ed era estremamente cerimonioso di tratto. Si era appena accomodato che già aveva cominciato a far complimenti alla signora Bennet per la sua bella schiera di figliole. Disse che aveva sentito molto parlare della loro bellezza, ma che in questo caso la fama si era rivelata al di sotto della realtà. E aggiunse che non metteva in dubbio che a suo tempo ella le avrebbe viste tutte felicemente accasate. Quella galanteria non incontrò molto il gusto di alcune fra le sue ascoltatrici. Tuttavia la signora Bennet, che sui complimenti non trovava mai nulla da ridire, rispose con la massima prontezza. Lei è molto gentile davvero e io mi auguro con tutto il cuore che ciò possa avverarsi, altrimenti queste poverine si troveranno alquanto sprovviste. Le cose stanno in modo così bislacco. Lei allude forse al trapasso di questa proprietà? Eh sì, signore, per l'appunto. Lei deve ammettere che la situazione è davvero penosa per le mie povere bambine. Non che io voglia muovere dei biasimi a lei, perché so bene che tutto questo mondo è questione di destino. Una volta che una proprietà è vincolata, non c'è modo di sapere come andrà a finire. Sono molto sensibile, signora, alla dura prova a cui sono esposte le mie belle cugine, e molto potrei dire in proposito se non fosse per il timore di apparire prematuro, precipitoso. Ma posso assicurare le signorine che sono venuto qui disposta ad ammirarle. Non voglio dire di più per ora, ma forse quando ci conosceremo meglio. Venne interrotto dalla chiamata pranzo e le fanciulle si scambiarono dei sorrisi. Non furono esse sole oggetto d'ammirazione per il signor Collins. L'atrio, la sala da pranzo con tutto il suo arredamento, tutto fu esaminato e lodato e i suoi favorevoli commenti avrebbero toccato il cuore della signora Bennet se non fosse stato per l'umiliante sospetto che gli adocchiasse ogni cosa come sua futura proprietà. Anche il pranzo fu a sua volta altamente elogiato e il signor Collins desiderò sapere a quale delle sue belle cugine se ne doveva l'eccellente manipolazione. Ma a questo punto fu rimesso a posto dalla signora Bennet, che lo assicurò in tono piuttosto aspro di essere perfettamente in condizione di tenere una buona cuoca e che in cucina le sue figliole non avevano nulla a che fare. Egli si scusò di esserle dispiaciuto, con tono raddolcito, e la dichiarò di non essere affatto risentita. Ma egli continuò a chiedere scusa per circa un quarto d'ora.